La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 3 aprile 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E questa settimana, come avete sentito sicuramente da tutti i media tradizionali, è stato realizzato uno degli esperimenti maggiori dall'accensione di LHC, cioè l'acceleratore di particelle sotto la superficie di Ginevra. Parleremo di questo esperimento, ma soprattutto cercheremo di capire molti dettagli realizzati proprio il 30 marzo del 2010 insieme al dottor Mirko Poyer, ingegnere in charge di LHC e, meglio detto, colui che ha guidato la macchina verso le collisioni a 7 TeV. Buongiorno, dottor Poyer. Buongiorno. Dottor Poyer, all'inizio, come lei sa, abbiamo 100 parole per introdurre la trasmissione e quindi in 100 parole le voglio chiedere di essere sintetico e di cercare di spiegare, o meglio di tradurre per il pubblico, che cos'è LHC. Ok, dunque LHC, la sigla LHC è l'acronimo di Large Hadron Collider, quindi un collisionatore di adroni, in questo caso protoni nel caso dell'LHC, large, grande. Infatti l'LHC misura ben 27 km di circonferenza ed è situato a 100 metri nel sottosuolo a Ginevra, appunto, dove ha sede il CERN, che è il Consiglio Europeo per le Ricerche Nucleari. Benissimo, dottor Poyer, a questo punto ci andiamo ad ascoltare un po' di musica. Do un attimo una introduzione di cosa sarà questa trasmissione. All'inizio, quindi nella sua parte, proveremo a parlare dell'esperimento realizzato appunto il 30 marzo presso LHC, mentre nella seconda parte della trasmissione proveremo a parlare di monopoli magnetici e parleremo di un esperimento chiamato Moedal Experiment, che è uno dei 7 esperimenti all'interno del Large Hadron Collider, per cercare di capire un pochino le frontiere che cercherà di superare questo grande collisionatore di adroni. Quindi a questo punto musica e poi torneremo in studio in compagnia del dottor Mirko Poyer. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, siamo di nuovo in collegamento col dottor Mirko Poyer, con cui stiamo provando a parlare di LHC. E all'interno di questa trasmissione, che ricordo ancora una volta è raggiungibile attraverso il sito di Radio Città Fujiko www.radiocittafujiko.it e www.cacciafotone.it, stiamo provando a parlare appunto di questo esperimento realizzato il 30 marzo del 2010 in cui sono state raggiunte delle energie mai raggiunte prima. Prima però di parlare col dottor Mirko Poyer di queste energie straordinarie e degli esperimenti realizzati all'interno del Large Hadron Collider, facciamo un salto indietro nel tempo. Un salto indietro nel tempo che ci riporta presso le sale cinematografiche degli anni Ottanta. Proceggio elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare 1,21 gigawatt di... 1,21 gigawatt! 1,21 gigawatt! Quanta divina! Doc, ma che diavolo è un gigawatt? Come posso essere stato così sventato? 1,21 gigawatt! Signor Edison, come posso ottenere quel tipo di potenza? Non si può fare! Vero, Tom? Doc, c'è soltanto bisogno di un pochino di plutonio. Ah, sono certo che nell'85 il plutonio si compra nella drogheria sotto casa, ma nel 55 la faccenda è molto più complicata. Marty, mi dispiace, ma sei condannato a rimanere qui. Ora, non so se l'avete riconosciuto tutti, questo era il famoso Ritorno al Futuro, parte prima, in cui questa discussione avveniva fra Marty McFly e Doc, in cui Doc stava cercando di raggiungere dell'energia di 1,21 gigawatt e non 1,21 gigawatt, come viene erroneamente detto nel film, per cercare di spingere la DeLorean per tornare nel 1985. Questo anno è servito per introdurre un po' l'argomento, perché le energie raggiunte nel centro di massa proprio il 30 marzo del 2010 all'interno di LHC sono state addirittura di 7 tera electron volt. Cosa vuol dire quindi aver raggiunto questo tipo di energie e in che modo sono stati raggiunti 3,5 più 3,5 tera electron volt nel centro di massa dove c'è stato effettivamente lo scontro? Sì, allora innanzitutto una piccola distinzione. Abbiamo visto cifre differenti sui giornali, letto cifre differenti e se ne è parlato in maniera differente. Quello che abbiamo fatto noi è stato portare i due fasci singolarmente a 3,5 tera electron volt di energia, non 7. In realtà poi, sommando i due, si arriva ad una energia nel centro di massa dove collidono i due fasci di 7 tera electron volt. Se vogliamo fare un confronto, se vogliamo avere una idea di quanto cosa significa un'energia di 7 tera electron volt, è equivalente a quella di un treno tipo il Cisalpino spinto alla velocità, equivale all'energia cinetica di un treno come il Cisalpino spinto alla velocità di 150 km/h, o ancora come l'energia cinetica di una nave trasportatrice di aerei che si sta muovendo a diversi nodi di velocità nel mare. Questa è l'idea di quanto siamo riusciti ad aumentare l'energia dei nostri fasci di particelle. Senti, intanto le voci che sentiamo in sottofondo sono ovviamente le voci dei suoi colleghi che stanno lavorando proprio in questo momento ai fasci di particelle che vengono sparati dentro LHC. Ma quando noi parliamo di LHC, di questo straordinario acceleratore di particelle di cui abbiamo parlato anche nel passato qui a Cacciafotone, in realtà parliamo di più esperimenti. In realtà LHC è fatto da 4 grossi esperimenti e tanti altri piccoli esperimenti. I 4 più grossi li possiamo definire come Atlas, CMS, ALICE e LHCb. Esattamente, questi infatti sono i 4 punti fondamentali dove sono situati i detector, i rivelatori di LHC. Si tratta di Atlas e CMS, che sono dei detector mastodontici come delle grandi cattedrali, e ALICE e LHCb, che sono più contenuti in dimensioni. Questi 4 esperimenti dovrebbero, soprattutto i primi due, Atlas e CMS, vengono definiti esperimenti multi-purpose, multiscopo. Diciamo, dovrebbero dare spiegazioni e trovare evidenze fisiche che sono state stipulate negli ultimi anni. In particolare, non so se già vuole che lo citiamo, l'esistenza o meno del bosone di Higgs, che è la famosa particella che i fisici chiamano la particella di Dio, che è la particella che dovrebbe essere responsabile della massa di tutte le particelle. Senta, non mi vorrei troppo ripetere all'interno di questa trasmissione perché ne abbiamo parlato nel passato, possiamo dire che insomma il bosone di Higgs è quella specie di punto di passaggio fra la materia e l'energia, e trovare il bosone di Higgs in qualche modo potrebbe essere la soluzione a molte teorie, soprattutto l'unificazione delle teorie che stanno aspettando molto i fisici da tanti anni. Però che cosa vuol dire quando si sente dire che è stato sparato un fascio a 3,5 TeV? Come si fa a sparare un fascio a quelle energie, e in che modo si riesce a sparare questo fascio? Sì, allora, quando parliamo di portare l'energia di un fascio a 3,5 TeV, significa sostanzialmente cedere dell'energia alle particelle attraverso un complesso sistema di cavità radiofrequenza. Sostanzialmente quello che si fa è ad ogni passaggio delle particelle per un determinato punto, gli si dà un calcetto per aumentare la loro energia. E questo viene fatto progressivamente con una rampa, un aumento progressivo dell'energia che in questo momento è di circa 50 minuti. Quindi in 50 minuti si riesce ad aumentare l'energia delle particelle dal valore di iniezione di 450 GeV fino ai 3,5 TeV, 3500 GeV, a cui momento in cui i due fasci vengono portati in collisione. Ugualmente allo stesso tempo, per guidare le particelle all'interno della traiettoria circolare, per confinarle all'interno della traiettoria circolare, bisogna anche aumentare il campo magnetico di confinamento. Quindi c'è tutta una serie, le particelle viaggiano all'interno di un tubo che è in ogni punto sottoposto ad un campo magnetico verticale che confina le particelle appunto nella loro traiettoria circolare, e con un campo magnetico per queste energie di 4 Tesla, equivalente più o meno, se vogliamo fare un paragone, a 80.000 volte il campo magnetico terrestre. Senta, nell'intervista che lei ha rilasciato al sito di LHC Italia, che è uno degli spin-off dell'INFN, un po' il sito di riferimento per sapere cosa sta succedendo lì presso il Large Hadron Collider, lei ha dichiarato che quelle ore sono state ore di passione e di paura. Ma perché sono state ore di passione e di paura? Sì, sostanzialmente cambia quello che cambiava in una giornata, come per noi sono tante altre, il fatto che c'era la stampa un po' di tutto il mondo. Quindi ovviamente eravamo sotto l'occhio attento delle telecamere, e qualsiasi errore avessimo commesso, e effettivamente non è che ci siano stati errori, ma abbiamo avuto un paio di defiance, ovviamente saremmo stati criticati lungamente dalla stampa mondiale. E soprattutto, infatti, come dicevo, abbiamo avuto un paio di problemi, nel senso che abbiamo provato fin dalla mattina alle 6, abbiamo avuto il primo tentativo di rampa che è abortito 10 minuti dopo l'inizio, e più tardi verso le 9 un secondo tentativo, anch'esso abortito 10-15 minuti dopo l'inizio. Nel primo caso un alimentatore di un circuito elettrico che ha avuto una avaria, e nel secondo caso un disturbo sulla rete elettrica che alimenta i nostri alimentatori nel tunnel. Nel terzo tentativo, quindi il secondo per quello che mi riguarda, perché in precedenza c'era un altro mio collega ai comandi, nel secondo tentativo ero ovviamente sotto tensione per i due tentativi falliti in precedenza, e ovviamente per l'ansietà delle persone che ci stavano attorno. Quindi all'eccitazione di avere una prima mondiale si aggiungeva chiaramente il nervosismo e la paura di non riuscire a fare quello che tutti si attendevano da noi in quella giornata. Fortunatamente una volta che la rampa è terminata, è andata a buon fine, che siamo riusciti a mettere i fasci in collisione, abbiamo potuto anche noi scaricarci, e tutta la tensione è stata in pochi secondi diluita dall'entusiasmo per aver ottenuto questo obiettivo così, così importante. Ricordo poi per tutti i nostri ascoltatori che quel 30 tutto quanto era in diretta in webcast, e quando finalmente i due fasci sono entrati in collisione c'è stata un'ovazione generale in cui le vostre facce erano assolutamente sorridenti, quindi si vedeva che eravate soddisfatti da questo esperimento. Ma mi spiega in parole povere, cercando cercando di spiegarlo, insomma, semplicemente, come si fanno a collimare due fasci di protoni e come si fa a farli scontrare proprio nel punto in cui si devono scontrare? Sì, certamente. Allora ci sono tutta una serie di condizioni, tutta una serie di misure, di piccoli aggiustamenti che bisogna fare sul fascio per dichiarare quello che si dice fascio stabile, perché gli esperimenti possono in maniera sicura attivare i loro detector e quindi cominciare ad acquisire dati sulle collisioni. Bisogna misurare e correggere precisamente l'orbita delle particelle, bisogna correggere il tune, cioè evitare risonanze nelle oscillazioni che potrebbero portare a disperdere i fasci dopo pochi giri, bisogna correggere la cromaticità, insomma ci sono tutta una serie di piccoli aggiustamenti che bisogna fare. Tutto questo va fatto in un tempo variabile tra i 10 minuti, 20, diciamo tra i 10 e i 20 minuti. Dopodiché collimatore in posizione, cioè gli elementi che puliscono i fasci dagli aloni che li seguono, e a questo punto si può dichiarare fascio stabile e gli esperimenti possono in tranquillità e in sicurezza attivare il loro detector, che non possono essere quindi danneggiati da nessuna particella persa durante la traiettoria circolare, e quindi possono in maniera sicura cominciare ad acquisire che risultano dalle collisioni tra le differenti particelle al loro interno. Senta, le faccio un domandone. Durante l'esperimento del 30, quanti terabit avete immagazzinato in total power? Porca, questa è una cosa che onestamente non so. Questa è una bella domanda sulla quale onestamente non mi sono ancora informato, dato che sono in shift dal 30 e non ho ancora smesso di far girare la macchina. Verificherò eventualmente e le farò sapere in un secondo momento. Senta, le faccio un'ultima domanda prima di concludere questo pezzo iniziale e poi, come già detto, andare a parlare di monopoli magnetici. Ma se il bosone di Higgs non venisse mai trovato, cosa succederebbe? Allora, potrebbe essere forse ancora più interessante, nel senso che, voglio dire, ancora più interessante che trovare Higgs, perché eventualmente in questo caso si aprirebbe la strada verso nuove formulazioni, nuove teorie fisiche, quindi potrebbe essere, probabilmente potrebbe essere ancora un momento più interessante di quello in cui dovessimo trovare effettivamente il bosone di Higgs. Ci sarebbero nuove teorie, nuove formulazioni, ci sarebbe spazio per un po' per tutti per ridefinire la fisica moderna. Dottor Poyer, a questo punto la ringrazio per aver partecipato a Calcio Fotone. Mi dispiace che le ho tolto un po' di tempo di lavoro presso LHC. In questo momento state facendo e state continuando a sparare dei fasci di protoni l'uno contro l'altro per cercare di trovare le risposte ultime che stiamo aspettando tutti da tanto tempo. A questo punto ci ascoltiamo un po' di musica, poi torneremo in studio e poi andremo a parlare, come già detto, di monopoli magnetici. Grazie, dottor Poyer. Bentornati in studio, cari radioascoltatori, dopo aver ascoltato la voce del dottor Mirko Poyer su LHC e soprattutto sull'esperimento fatto qualche giorno fa a Sette Teva all'interno di questo acceleratore di particelle, e poi abbiamo cercato di spiegare i quattro esperimenti principali, cioè ATLAS, CMS, ALICE e LHCb. In questo momento parleremo invece di un altro esperimento, del settimo esperimento di LHC, chiamato Moedal Experiment, e ne parleremo con la dottoressa Laura Patrizzi, primo ricercatore presso l'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Bologna. Buongiorno dottoressa Patrizzi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dottoressa Patrizzi, la prima domanda che le voglio fare è un po' questa: come mai il Moedal Experiment si chiama proprio Moedal e perché il Moedal Experiment è all'interno di LHC e quindi che cosa sta cercando di rilevare? Allora, il nome è un acronimo, viene da Monopole, adesso poi le dirò il significato, Monopole and Exotics Detector at the LHC, at the LHC. E sta quindi un rivelatore per monopoli magnetici e particelle esotiche, questa è la traduzione, a LHC. Dottoressa Patrizzi, lei ha appena introdotto l'argomento della seconda parte della trasmissione, cioè i cosiddetti monopoli magnetici, che è l'argomento di cui parleremo proprio in questa parte. Ma effettivamente i monopoli magnetici cosa sono, visto che dalla nostra esperienza, tra virgolette, scolastica, noi ricordiamo i dipoli magnetici, cioè una calamita ha un polo positivo, un polo negativo, una forza elettromagnetica ha un polo positivo e un polo negativo, ma i monopoli effettivamente che cosa sono quindi? Allora, con questo termine si denota una ipotetica particella elementare, così come sono per esempio elementari gli elettroni o i quark, però dotata, questa particella ipotetica, di carica magnetica, che si comporta come un polo magnetico isolato. Ora, nella nostra esperienza comune sappiamo che se prendiamo una calamita, troveremo sempre un polo nord e un polo sud. Per quanto possiamo immaginare di spezzettarla e farla piccola, troveremo sempre un polo nord e un polo sud connessi, inscindibili, cioè non riusciamo a separare il cosiddetto polo nord magnetico dal polo sud magnetico. E anche quando si scende a livello più elementare dell'atomo o dell'elettrone stesso, questi si comportano come delle piccole calamite. Quindi nel mondo che ci circonda, il mondo che ci circonda sembra essere privo di cariche magnetiche isolate. Quindi, con monopolo magnetico invece si intende una particella dotata di carica magnetica isolata. Lei, dottoressa Patrizia, ha appena detto che i monopoli magnetici non fanno parte del nostro mondo, ma quindi effettivamente a quali domande potrebbe dare risposta la scoperta dei monopoli magnetici? Beh, appunto la ricerca dei monopoli magnetici, quindi dei singoli poli magnetici, è una storia che parte appunto da molto lontano, da quando la gente si era accorta che non era possibile, ma diciamo nella storia poi con le equazioni di Maxwell, cui di fatto il magnetismo risulta essere una sorta di sottoprodotto dell'elettricità, si vede che da un punto di vista anche puramente formale sarebbe possibile introdurre la carica magnetica e ottenere una splendida, si dice nel linguaggio scientifico, simmetrizzazione delle equazioni di Maxwell, cioè scambiando in queste equazioni il termine che indica la carica elettrica con il termine che indica la carica magnetica, sarebbe tutto perfettamente uguale. Quindi, come lei sa, probabilmente i suoi ascoltatori sanno, i fisici hanno una particolare predilezione per la ricerca della simmetria, e quindi diciamo che questo è stato un primo movente. Successivamente, nel 1931, Dirac introdusse invece l'esistenza della carica magnetica isolata per spiegare la quantizzazione della carica elettrica, che per esempio è quella dell'elettrone. Dottoressa, lei ha appena citato le famose quattro equazioni di Maxwell, famose appunto per i fisici, che dovrebbero descrivere che cos'è l'elettromagnetismo, ma effettivamente le quattro equazioni di Maxwell, se riuscissimo a spiegarle con parole semplici, come le potremmo definire? Guardi, detto in soldoni, di fatto quello che rappresentano è questo, che ogni carica elettrica genera un campo cosiddetto elettrico, e quando una carica elettrica è in movimento genera anche un campo magnetico. Va bene, così come poi un campo magnetico in movimento oscillante può generare un campo elettrico. Perfetto, dottoressa, l'ho interrotto un attimo proprio sulle equazioni di Maxwell. A questo punto torniamo un pochino indietro. Lei stava parlando appunto di Dirac e della creazione dell'idea del monopolo magnetico. Le dicevo di Dirac, no? Dirac introdusse questa idea del monopolo magnetico. Come tutte le altre particelle che non sono presenti nel mondo che ci circonda, una prima possibilità fu di cercare il monopolo magnetico agli acceleratori, laddove vengono create, per la famosa relazione di Einstein E uguale mc quadro, nuove particelle che non abbiamo. Quindi già dagli anni 50, con ogni nuovo acceleratore, venne condotta una ricerca di monopoli magnetici ipoteticamente producibili, che potevano essere quindi prodotti in collisioni come si producono altre particelle, d'accordo? E perché tra l'altro Dirac non faceva nessuna predizione circa la massa di questo monopolo, che probabilmente per diverse ragioni dovrebbe avere una massa molto più grande della massa dell'elettrone. Quindi uno ha un open mind, ha una mente aperta e dice: va bene, ho a disposizione questa energia, vado a vedere se riesco a produrre dei monopoli magnetici, e ricerca. E finora nessun acceleratore sono stati trovati. Infatti una ricerca analoga a quella di cui stiamo parlando, a quella che verrà condotta a LHC, è stata condotta anche all'acceleratore precedente del CERN, all'EP. Questa è stata una linea di ricerca. Un'altra linea di ricerca è stata la seguente: negli anni 70, con l'ipotificazione delle interazioni fondamentali, si vide che questo, il modello della cosiddetta grande unificazione, implicava l'esistenza, in modo molto naturale, implicava l'esistenza dei monopoli magnetici, che però avrebbero una massa estremamente elevata e l'energia necessaria a produrli non è assolutamente disponibile né adesso né mai, perché ci vorrebbe un acceleratore delle dimensioni del nostro universo. Allora uno si chiede: quindi non c'è chance di vederli? No, potrebbero essere stati prodotti questi monopoli magnetici cosiddetti supermassivi anche loro quando, nei primi istanti dell'universo, però attenzione, un po' prima del tempo che viene sondato adesso con LHC, quindi alcuni istanti anche prima di quegli istanti che vengono riprodotti in modo proprio, come si dice normalmente, ad LHC. E questa ricerca è stata condotta perché, se queste particelle fossero state prodotte, sarebbero stabili e sarebbero delle particelle fossili presenti nei raggi cosmici. Dottoressa Patrizi, qualche anno fa, circa 2 anni fa, abbiamo avuto l'onore di avere qui ospite il professor Gabriele Veneziano, un po' il creatore della teoria delle stringhe nel 1968, e nella sua intervista, proprio nelle pieghe della sua intervista, quando parlavamo dei monopoli magnetici, lui affermava che la scoperta dei monopoli magnetici in qualche modo potrebbe dare veridicità alla teoria delle stringhe. Lei che cosa ne pensa di questa affermazione? Pensa davvero che la scoperta dei monopoli magnetici possa dare una risposta ultima alla unificazione delle teorie? Non posso pensare diversamente dal professor Veneziano, che è assolutamente uno dei precursori della teoria delle stringhe, quindi sicuramente non sono in grado di aggiungere nulla a quello che lui dice. In questo momento la teoria sicuramente lo prevede, tuttavia è soltanto la verifica sperimentale che ne può dare una prova. A questo punto, dottoressa, vorrei visualizzare, come dire, visivamente l'esperimento Moedal. Nei 30 km di LHC, esattamente Moedal dove è localizzato? Esattamente nella posizione di LHCb. Cioè vicino all'esperimento che cerca la particella Beauty? Esattamente, sì. Sa che le curiosità vengono un po' come le ciliegie, no? Perché quindi è localizzato in quel punto e non in altri? perché lì c'era lo spazio per poter disporre, per poter distribuire i nostri rivelatori. È solo una questione di disponibilità di spazio, non è connessa questa, la collocazione di Moedal con la fisica che vuole studiare l'esperimento LHCb. Senta, un'altra domanda da farle, visto che le curiosità che ho e che spero abbiano i nostri radioascoltatori sono veramente tante. Questo esperimento esattamente come è composto? Perché, ok, andiamo a cercare i monopoli magnetici. Abbiamo capito che i monopoli magnetici in qualche modo non sono molto facili da rilevare. Abbiamo capito che questo esperimento è vicino all'esperimento LHCb. Ma effettivamente questo strumento, questo rivelatore, come è composto e in che modo andrà a cercare i monopoli magnetici? L'esperimento, il rivelatore, lo strumento per cercare i monopoli magnetici è veramente molto semplice. La ragione è che i monopoli magnetici, se ci sono, avrebbero, questo non gliel'ho potuto dire prima, una carica magnetica elementare estremamente elevata e, in analogia alle cariche elettriche, una carica magnetica in movimento genererebbe un campo elettrico e questo campo elettrico produrrebbe un danno o quello che è poi alla base del segnale di ciò che andiamo a vedere nei rivelatori, estremamente intenso. Difatti, un problema dei rivelatori degli altri esperimenti di LHC è che un monopolo accecherebbe i rivelatori che sono utilizzati in questi esperimenti, che sono invece ottimizzati per la rivelazione di particelle che rilasciano un'energia molto meno intensa. Invece noi utilizziamo banalmente tra virgolette, nel senso che è molto più semplice del resto, però non è proprio banale, un sistema basato su delle plastiche che commercialmente si utilizzano per la produzione di occhiali da sole, per lenti solari. Uno dei prodotti migliori si chiama CR39, è una sigla, semplicemente non sta per niente, è semplicemente un nome dato a un polimero. E quando il monopolo magnetico ipotetico, o comunque una particella che ionizza molto, vuol dire che rilascia una alta quantità di energia, quando una particella di questo tipo attraversa questi materiali e lascia una sorta, viene chiamata di traccia latente, un danno localizzato, va bene? Un danno localizzato intorno alla traiettoria della particella. Con un'opportuna procedura chimica è poi possibile amplificare questo danno e renderlo visibile al microscopio ottico. E una particella, per esempio un monopolo che attraversa una plastica, che l'attraversa per esempio incidendo, arrivando perpendicolarmente, uno osserverebbe dopo questo processo di attacco chimico un cono con la base sulla superficie e il vertice all'interno della plastica, e le dimensioni di questo cono sono collegate alla perdita d'energia della particella. Con opportune poi procedure di calibrazione uno riesce a risalire al tipo di informazione direttamente connesso alla particella stessa. Ovviamente ci sono più fogli in sequenza perché il monopolo magnetico lascerebbe uno stesso cono uguale, di uguali dimensioni, su più foglietti, e questo di fatto rende la ricerca estremamente pulita, si dice nel nostro linguaggio, priva o quasi priva di fondo, priva di rumore, sarebbe cioè un segnale estremamente netto, nitido. Dottoressa, in questo modo si conclude la nostra trasmissione di questo sabato. Saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Caccia Fotone e di Radio Città Fugico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza a tutti. Grazie, dottoressa. Arrivederci. Ich zog Ivan.